Il mio nome. vuoi, di tu che vuoi, tu che vuoi, è l'amore che cerchi tu che vuoi, di tu che vuoi. Oh, quel nome? Quel nome? Bravo servo, chiede per amor, obbedire non può. Perché gridi? Lasciatela! Oh, balzo di vecchio e morta. Vieni, correndo, le spieremo tutti, l'animo peso, l'animo peso. Si vendicherò. Seguirò per posare. Che l'alba, 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you.